nascondere ai denti, brucia nei silenzi, giura che mi tormenterai coi tuoi aguzzi coltelli, brucia spergiura sui miei respiri, che nuovi inferni accenderai nei miei sorrisi. Non smetterai davanti a sogni non infiniti, la tua pace esploderà nei miei universi. Brucia nelle mie mani, giura che il fuoco danza senza un domani, brucia i ribolli, fiamma soffusa, tu che di lava inonderai la mia mente confusa, brucia negli occhi, dentro i miei pianti, giura che il ghiaccio scioglierai dai miei cristalli. L'acqua che scotta, che nella tazza la tua cera mi verserai, giura che il tempo che verrà del tuo sapore brucerà ore per sempre.